America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Continua il dibattito per prolungare i tagli fiscali di Bush in America. Ieri Barack Obama ha offerto un'ipotesi di compromesso, ha suggerito che alle concessioni per il prolungamento sui tagli fiscali venga collegato comunque un prolungamento dei sussidi per la disoccupazione, che finiranno per scadere nei prossimi giorni e che potrebbero portare, ha detto il presidente ieri, fino a 2 milioni di persone senza lavoro e comunque senza alcun aiuto entro il mese di dicembre. Queste notizie in divenire a Washington per ora non hanno prodotto un impatto negativo sui mercati, che invece continuano a correre. L'indice Dow Jones ieri è aumentato quasi dell'1%, 106 punti, siamo arrivati a quota 11.362, dunque un'inversione di tendenza rispetto ai movimenti un po' neri di lunedì, martedì, che vedevano le borse in ribasso. Ma oggi vorrei parlarvi per una volta di quello che fa l'Italia in America, di un evento organizzato dalla Federlegno, dall'ICE, da COSMI, dagli esportatori dell'arredo italiano in America, che hanno non soltanto organizzato delle showroom, ma hanno creato anche degli eventi culturali importanti. Senza crisi, Natale sempre straordinario a New York, atmosfera da film, un avvicinamento che dura un mese, e il design italiano ne ha approfittato per dare il suo contributo alla città con un happening fatto di grandi rappresentazioni artistiche come questa dell'Armory di Peter Greenaway, artista, regista, un allestimento dell'ultima cena di Leonardo corredato da immagini delle piazze delle città italiane e da quelle del Rinascimento. Il Leonardo è un remake di quello che ci fu al Salone del Mobile del 2008 a Milano, solo che allora c'erano 4 proiezioni video, mentre qui ce ne sono 33. Le mostre sono 2, ce n'è un'altra infatti in un loft a Chelsea, Roberto Bolle interpretato da Bob Wilson, la vedremo più avanti, e portano un messaggio sottostante che è sempre nella ricerca del gusto estetico, che trova la sua proiezione in altre opere d'arte, in un design di mobili, di cucine, di oggetti italiani con cui viviamo ogni giorno e sono in varie showroom sparse per la città. Le mostre, le showroom, dove l'immagine si traduce in esportazioni, 1.500 milioni di dollari per l'arredo italiano in America, sono organizzate dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero in collaborazione con Federlegno Arredo e COSMIT. Per 6 settimane, dal 29 novembre 2010 all'8 gennaio 2011, gli showroom di 20 grandi marchi italiani offriranno un circuito ideale, un vero e proprio Italian Design Street Walking, che è poi il nome dell'iniziativa, che si dirama fra Soho, l'Upper East Side e Murray Hill. Tutti hanno messo a disposizione le loro showroom. L'inaugurazione il 29 novembre scorso da Scavolini a Soho, a tagliare il nastro c'erano i presidenti dei 3 enti promotori, Umberto Vattani dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Rosario Messina di Federlegno Arredo, Carlo Guglielmi di COSMIT. Intanto l'impatto, il giro d'affari dell'arredo italiano in America. Beh, una cifra rispettabile, 1.500 milioni, ed è una cifra in crescita, quindi è probabile che con le vendite di fine anno riusciremo a raggiungere livelli più alti che ci serviranno per, come trampolino per l'anno prossimo. Diciamo che noi vediamo negli Stati Uniti una leggera ripresa dal crollo verticale che abbiamo avuto non tanto dal 2008 col crack finanziario, ma qui il crack era cominciato come fatturato già nel 2003, quando, essendo leader nella vendita di divani in America, c'è stata l'invasione dei cinesi, cominciamo ad avere un'inversione di tendenza. Io sono sicuro che anche la cultura del cliente americano, dell'acquirente americano, non sia più quella rivolta a comprare un mobile solo come funzione, ma bensì un mobile come investimento. Allora c'è la qualità, c'è il design, c'è qualcosa che dura nel tempo. Il tentativo è quello di far capire a tutti come i nostri prodotti sono prima di tutto il risultato della nostra cultura, e quindi veniamo qua con una serie di eventi culturali, strettamente culturali, che poi leghiamo evidentemente al nostro business attraverso una catena ideale che abbiamo creato tra tutti gli showroom di illuminazione e di arredo che ci sono a New York. La manifestazione, creata in previsione delle celebrazioni per i 50 anni del Salone del Mobile che si terrà a Milano nell'aprile del 2011, diventa dunque un'anteprima qui a New York, una città da sempre pervasa dal gusto artistico. Bob Wilson, dunque, al Center 548 di Chelsea, il 30 novembre si è inaugurata la sua installazione Per Chance to Dream, uno studio sulla continuità delle forme e sul movimento che in questo caso parte dal corpo del ballerino Roberto Bolle per irradiarsi poi nello spazio domestico, nel nostro spazio di tutti i giorni, in quello spazio in cui gli americani potranno poi identificarsi e riconoscere alcune delle opere del design italiano che oggi sono al MoMA, sono nei più grandi musei di questo paese. Sullo sfondo di questa installazione di Bob Wilson, resta il design italiano, una cucina a blocco di Boffi del 1966, disegnata da Gio Colombo, grandi armonie nella linea, nella lentezza tranquilla delle immagini che seguiamo di Bolle, ma poi si mischiano in quelle dei mobili, mobili che resistono intatti in un mondo postmoderno in rovina, dove prevale un'ossessione di Wilson, le sedie, le poltrone, la comodità che resiste nel tempo e poi la curiosità di vedere oltre la siepe, archiviato il grigiore della crisi, prevale l'ottimismo tipicamente italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, gli Arcade Fire. Vi facciamo ascoltare Ready to Start. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.